Povera vita mia, ci voglia e magna, chi se ne fa un rap e chi la pigna. Ci sta, ci sta, e pure chi negna, chi vuole l'acqua zuffa e chi lo svenna.